Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Terza favola della settima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Lodovica, a cui il terzo luogo di favoleggiare toccava, levossi in piedi e, fatto una riverenza alla signora, con sua licenza così disse. Favola terza. Cimarosto buffone va a Roma e uno suo secreto al leone papa racconta e fa dar delle busse a due suoi secreti camerieri. La favola, graziose e amorevoli donne, da Fiordiana ingegnosamente raccontata, vi ha dato materia di spargere qualche lacrima per essere stata pietosa. Ma perché questo luogo è piuttosto luogo di ridere che di piangere? Ho determinato dirne una, la qual spero vi sarà di non poco piacere, perciò che intenderete le buffonerie fatte da uno bresciano, il qual, credendosi a Roma di venir ricco, in povertà e in miseria finì la vita sua. Nella città di Brescia, posta nella provincia di Lombardia, già fu un buffone cimarosto per nome chiamato, uomo molto astuto, ma a bresciani poco grato, sì, perché egli era dedito all'avarizia, devoratrice di tutte le cose, sì anco perché egli era bresciano e niun profeta è ricevuto nella propria patria. Vedendo Cimarosto non avere il convenevole precio che gli pareva per le sue facezze maritare, tra se stesso molto si sdegnò, e senza far sapere ad alcuno il voler suo, di Brescia si partì e verso Roma prese il camino, pensando di acquistare gran quantità di danari. Ma non gli andò fatto com'era il desiderio suo, perciò che la città di Roma non vuole pecora senza lana. Trovavasi in quei tempi in Roma sommo pontefice Leone, di nazione alemana, il quale, quantunque scienziato fosse, pur alle volte e di buffonerie e di altri simili piaceri, come fanno i gran signori, molto si dilettava. Ma pochi, anzi niuno, era guidardonato da lui. Cimarosto, non avendo conoscenza d'alcuno in Roma, né sapendo in qual guisa farsi a Papa Leone conoscere, determinò di andare personalmente a lui e dimostrargli le sue virtù. E andatosene al palazzo di San Pietro, dove il Papa faceva la residenza, trovò nella prima entrata un cameriere assai robusto, con barba nera e folta, il quale gli disse: «E dove vai tu?» E postagli la mano nel petto, lo ribatté indietro. Cimarosto, vedendo la turbata ciera del cameriere, con umil voce disse: «Deh, fratello mio, non mi impedir l'entrata, perciò che ho da ragionar col Papa cose importantissime». Disse il cameriere: «Parteti di qua per lo tuo meglio, se non tu troverai cose che non ti piaceranno». Cimarosto pur instava ad entrare, affermando tuttavia di aver cose importantissime da ragionare. Intendendo il cameriere la cosa essere di molta importanza, pensò tra sé che egli dovesse dal Papa esser sommamente guidardonato, e pattiggiò con lui se libera l'entrata voleva. E la loro convenzione fu questa, che il Cimarosto desse al cameriere nel suo ritorno dal Papa la metà di quello che gli fia concesso. Il che di fare Cimarosto largamente promise. Ed andato più oltre, Cimarosto entrò nella seconda camera, alla cui custodia dimorava un giovane assai mansueto, il quale, levatosi da sedere, ci li fe incontro e disse: «Che addimandi tu, compagnone?» A cui rispose Cimarosto: «Io vorrei parlare col Papa». Disse il giovane: «Ora non se gli può parlare, perciò che ad altri negozi egli è occupato, e sallo iddio quando fia il tempo comodo di poterli parlare». Disse Cimarosto: «Deh, non mi tenerà bada, perciò che troppo sono importanti le cose che raccontargli intendo». Il giovane, udite cotai parole, pensò quello istesso che l'altro cameriere immaginato s'aveva, e dissegli: «Se tu vuoi entrare, voglio la metà di tutto quello che il Papa ti concederà». Il che di fare Cimarosto liberamente rispose. Entrato dunque Cimarosto nella sontuosa camera del Papa, vide un vescovo tedesco che stava discosto dal Papa in un cantone, ed accostatosi a lui, si mise seco a ragionare. Il vescovo, che non aveva l'italiano idioma, ora tedesco, ora latino parlava, e Cimarosto, fingendo di parlare tedesco, sì come buffoni fanno, ciò che in bocca gli venea rispondeva. E di tal maniera erano le loro parole, che né l'uno né l'altro non intendeva quello si dicesse. Il papa, che era alquanto occupato con un cardinale, disse al cardinale: «Odi tu che odo io?» «Beatissimo padre, sì», rispose il cardinale. Ed avedutosi il papa, che ogni linguaggio ottimamente sapea del burlo che facea Cimarosto al vescovo, rise e gran piacere ne prese. E fingendo di ragionar col cardinale, a ciò che la cosa più in lungo si traesse, gli voltò le spalle. Avendo adunque Cimarosto e il vescovo per gran spazio con grandissimo piacere del papa contrastato insieme, né intendendo l'uno e l'altro il suo linguaggio, finalmente disse Cimarosto latinamente al vescovo: «Di qual città siete voi?» A cui rispose il vescovo: «Io sono della città di Nona». Allora disse Cimarosto: «Monsignor mio, non è maraviglia che voi non intendevate il parlar mio, né io il vostro, perciò che se voi siete da Nona e io sono da Compieta». Sentito il papa la pronta e arguta risposta, si mise col cardinale in sì fatto riso che quasi si smassellava, e chiamatolo a sé, l'addimandò chi egli era e di dove venea e che andava facendo. Cimarosto, prostrato a terra e baciato il piede al Santo Padre, rispose esser bresciano e nominarsi Cimarosto e esser venuto da Brescia a lui per ottenere una grazia da Sua Santità. Disse il papa: «Addimanda quel che vuoi». «Io?» rispose Cimarosto. «Altro non voglio da vostra beatitudine se non 25 staffilate e delle migliori». Il papa, udendo la sciocca dimanda, molto si maravigliò e assai se ne rise, ma pur Cimarosto fortemente instava che la grazia gli fosse concessa. Il papa, vedendolo persistere in cotal suo volere e conoscendo lui dir da dov'ero, fece chiamare un robustissimo giovane ed ordinòli che in presenza sua gli desse 25 buone staffilate per suo amore. Il giovane, ubbidientissimo al papa, fece spogliar Cimarosto nudo come nacque e, preso un sodo staffile in mano, voleva eseguire il comandamento impostoli dal papa. Ma Cimarosto con chiara voce disse: «Fermati, giovane, e non mi battere!» Il papa, veggendo la pazzia di costui e non sapendo il termine, scoppiava dalle molte risa e comandò al giovane che si fermasse. Fermatosi il giovane, Cimarosto così ignudo si inginocchiò davanti al papa e con calde lagrime disse: «Non è cosa, beatissimo padre, al mondo che più dispiacqua a Dio che la rotta fede. Io per me voglio mantenerla, purché vostra santità non sia manchevole. Io contra mia voglia promisi a due di vostri camerieri la metà di quello che da vostra santità mi sarà concesso. Io richiesi 25 staffilate buone e voi, per vostra innata umanità e cortesia, concesse me l'avete. Voi adunque, per nome mio, farete dar 12 staffilate e mezza ad uno cameriere e 12 e mezza all'altro, e così facendo voi adempirete la dimanda mia ed io la loro promessa». Il papa, che non intendeva il fine della cosa, disse: «E che vuoi per questo dire?» Allora disse Cimarosto: «Se io, santissimo padre, volsi qua entro entrare e da vostra beatitudine a presentarmi, forza mi fu contro ogni mio volere pattiggiare con due di camerieri vostri e con giuramento promettergli la metà di quello che voi mi concederete, onde, non volendo mancare della promessa fede, mi è forza di dare a ciascuno di loro la parte sua e io ne rimarrò senza». Il papa, intesa la cosa, assai si risentì e, fatti i camerieri a sé venire, ordinò che si spogliassino e, secondo che Cimarosto promesso l'aveva, fussero battuti, il che fu subito eseguito. Ed avendo il giovane a ciascuno di loro due date 12 staffilate e mancandone una al numero di 25, ordinò il papa che l'ultimo ne avesse 13. Ma Cimarosto disse: «Non bene si conviene, perciò che egli arrebbe più di quello che io li promisi». «Ma come si farà?» disse il papa. Rispose Cimarosto: «Fategli legare ambidue sopra una tavola, uno appresso l'altro con le rene in su, ed il giovane gliene darà una buona che accingherà indifferentemente l'uno e l'altro, e così ciascuno ugualmente arrà la sua parte e io ne rimarrò libero». partito Cimarosto dal Papa senza rimunerazione alcuna, fu per le sue pronte risposte dalle persone circondato, ed avvicinatosi a lui un prelato che era buon compagno, disse: «Che è qui da nuovo?» E prestamente Cimarosto rispose: «Non altro, salvo che dimane si criderà la pace». Il prelato, che creder non poteva, né ragion vi era che crederlo dovesse, disse a Cimarosto: «Tu non sai quel che tu dici, perciò che egli è tanto tempo che il Papa e Franza guerreggiano assieme, né mai si è sentita parola di pace». E fatto lungo contrasto insieme, disse Cimarosto al prelato: «Messere, volete che vada un godimento tra noi, che domani si griderà la pace?» «Sì», rispose il prelato. Ed in presenza di testimoni, misero 10 fiorini per uno a godere insieme. Partitosi il prelato con animo di far gozzaviglia a costo di Cimarosto, allegramente se n'andava. Ma Cimarosto, che non dormiva, andò al suo alloggiamento e, trovato il patrone di casa, disse: «Patrone, io vorrei da voi uno piacere che sarà utile e di diletto». «E che vuoi?» disse il patrone. «Non sai che mi puoi comandare?» «Io», disse Cimarosto, «non voglio altro da voi se non che la moglie vostra dimani si vesti di quelle armi antiche che sono nella camera vostra, né dubitate punto di male, né di disonorare alcuno, e poi lasciate la cura a me». Aveva la moglie del patrone nome Pace, e l'armatura da uomo di arme erano sì rugginose e di sì gran peso che un uomo, quantunque gagliardo fosse, sendo in terra steso, levar non si potrebbe. Il patrone, che era festevole e molto attrattivo, conosceva Cimarosto pieno di berte, e però di tal cosa volse compiacergli. Venuto il dì sequente, il patrone fece la moglie di tutte quelle armi vestire, e così armata la fece in terra nella sua camera distendere. Poi disse alla donna: «Levati su in piedi». Ed ella più volte si sforzò di levarsi, ma muoversi non si potea. Cimarosto, vedendo che la cosa gli riusciva così come desiderava, disse al patrone: «Parti anzi di qua». E chiuso l'uscio della camera che guardava sopra la strada pubblica, si partirono. La moglie del patrone, vedendosi chiusa sola in camera e non potendosi muovere, grandemente temette di qualche sinistro caso e ad alta voce si mise a gridare. La vicinanza, sentendo il gran grido e il suono delle armi, corse a casa dell'oste. Cimarosto, udito il tumulto degli uomini e delle donne che vi erano concorsi, disse al patrone: «Non vi muovete né parlate, ma lasciate il carico a me, che presto goderemo». E sceso giù per la scala, andò sopra la strada e addimandò questo e quello: «Chi è colui che sì fortemente grida?» E tutti ad una voce rispondeano: «Non odi tu che grida la pace?» E fattosi replicare e treplicar tal detto, chiamò molti testimoni della gridata pace. Passata l'ora di compieta, venne il prelato e disse: «Tu hai pur perso, fratello, il godimento. Non è già finora sta gridata la pace?» «Anzi sì», rispose Cimarosto, e tra loro fu grandissimo contrasto, e fu bisogno che un giudice la casa determinasse, il quale, udite le ragioni di l'una parte e l'altra, e uditi i testimoni che apertamente deponevano tutta la vicinanza aver sentito gridar la pace, sentenziò il prelato a pagare il godimento. Non passarono due giorni che Cimarosto, andando per la città, si incontrò in una donna romana ricchissima, ma sozza come il demonio. Costei era maritata in un bellissimo giovane, e di tal matrimonio ognuno si meravigliava. Avvenne che allora a caso passò un'asinella, e a lei voltandosi Cimarosto disse: «Oh poverella, se tu avessi danari assai come a costei, tu ti mariteresti». Il che intendendo un gentiluomo, che della sozza donna era parente, prese un bastone e sopra la testa gli diede sì fatta percossa che per mani e per piedi a casa dell'oste lo portarono. Il cirugio, per poterlo meglio medicare, gli fece radere la testa. Gli amici che venivano a visitarlo dicevano: «Cimarosto, come stai? Tu sei raso?» Ed egli diceva: «Deh, tacete per vostra fe e non mi date noia, che se raso o damaschino io fosse, io valerei in fiorino il braccio, che ora nulla vaglio. Venuta poi l'ultima ora della sua vita, venne il sacerdote per dargli l'ultima unzione, e incominciollo a ungere. E venuto con l'unzione ai piedi, disse Cimarosto: «De, messer, non mi ungete più. Non vedete voi come presto vado e leggermente corro?» I circostanti, udendo questo, si misero a ridere, e Cimarosto, così buffoneggiando, in quel punto se ne morì. E in tal guisa, egli con le sue buffonarie, ebbe miserabil fine. Fine della storia. La favola da Lodovica raccontata era già venuta al fine quando la signora le impose che con un dotto enimma l'ordine seguisse, la qual con lieto viso e chiara faccia così disse: «Vecchio già fui per tempo, e quando nacqui fui da mia madre maschio procreato. Molti giorni nell'acque fredde giacqui, indi portato fuor martirigiato. Cotto già fui, e quando all'uomo piacqui, col ferro m'ebbe ancor tutto squarciato. Da indi in qua al servir fui sempre buono. Ditemi se il sapete chi ch'io sono.» Nella picciola ammirazione porse il sottile enimma all'onorevole compagnia. Né vi fu veruno che interpretare lo sapesse. Ma la prudente Lodovica, vedendolo irresolubile rimanere, alquanto sorridendo disse: «Non già ch'io sia bramosa da insegnare ad altri, ma per non tenere sì fatto collegio tanto tempo a bada, disporrò l'enimma da me recitato, il qual, se io non erro, altro non ci dimostra eccetto il lino, imperciò che egli dalla madre, cioè dalla terra, è maschio procreato. Dopo messo nelle freddi e correnti acque a macerare, indi cotto dal sole posto in calda, e col maglio fieramente battuto, e finalmente col ferro, cioè con la spolla e con la spinazza, tutto dilaniato e squarciato. Piacque ad ogni uno la isposizione dello enimma, e dotta la riputorono.» Fine della terza favola della settima notte. Registrazione di Marzia Marianera.